A Rock FM sono le 8. Sveglia ragazzi, è inutile restare lì. Pane, burro e rock and roll. Tuffatevi giù dal letto, tolto il dente, tolto il dolore. Azione rock, la migliore in circolazione. Ogni giorno alla mattina ascolta. Un benvenuto a coloro che si svegliano in questo istante e a coloro che si sono sintonizzati solo in questo momento. Seconda ora di diretta della puntata 122. Nello specifico lunedì 5 di novembre inauguriamo, come ogni nuova settimana, come ogni lunedì, anche un nuovo film che ci terrà compagnia fino a venerdì. Lo scopriamo insieme, ma sì, dai. Sei contenta che ti lascio dai nonnini? Momento! Oh! Oh! Oddio, che... Una mostruosità, stai molto attenta, è terribile. Alexa, allerta. Com'è Mariangela con la bambina? Che, con la babbuina, con la... Scusa, con la bambina. Scusa, Pino, ma il primo impatto è che non riesco, capito? Apri questa pina, eccolo, sento già l'odore. Eccolo qua. Eccolo! Amore della nonna, lei è bella, bella. Ugo, ma non dai un bacio alla bambina? È una formalità irrinunciabile. Se la ride, continua a ridere nonostante il lunedì mattina, perché qui a Pane, Burro e Rock and Roll ce la stiamo godendo. Guardi, ce dirlo, la spassiamo. Può dirlo forte, maestro. Anche perché, ma non dice ce la spassiamo ad alta voce? ce la spassiamo ad alta voce. No, fanculo. Compleanni del giorno, oggi non c'è Intesa, Frick. Ma cosa vuol dire? Perché non dice ce la spassiamo ad alta voce? Facciamo mi traduca. Compleanni del giorno, gliela spiego dopo, anche perché mi deve aiutare. Il primo compleante io non so chi sia, nasceva il 5 novembre del 613 Isaac de Bersenar. Isaac de Berserad, poeta. Sono contentissimo e librettista francese che si sia inciampato anche lei un po' di giustizia radiofonica. Chi è? Isaac de Benserad. Chi è? Vede come io lo pronuncio sciolto. Lei mi invidia oggi, eh? Risponda vede alla mia come domanda. Sono brillante. Sa chi è? Ma certamente, Isacco della Benserata era un famoso qui c'è poeta. C'è Puzza del nostro redazionista che per omonimia con il suo nome l'ha inserito nei compleanni di quest'oggi. So certamente che nel 1941 oggi nasceva Art Garfunkel, musicista, celebre compagno di Simon Le Bon. No, no, c'era vicino, ma non era Le Bon. Forse Paul Simon? L'ho azzeccata, colpo di scena. It's up to you, Mrs. Robinson. Sì, non c'è bisogno di cantare. Non c'è veramente bisogno. La paghiamo lo stesso, anche se non la canta. E soprattutto, anzi, forse di più, vorrei ricordare il compleanno di un grande cantautore italiano, Pierangelo Bertoli, che nasceva nel 1942 e ahimè ci lasciava nel 2002. Lei, maestro Frick, ha mai avuto il piacere di conoscere il buon Pierangelo? Sì, devo dire di sì. Uomo veramente energico, eh? Al di là dello stereotipo che ne usciva dalle sue canzoni, certo, era veramente un uomo che affrontava la vita con grande energia e grande vigore. È riuscito a fare una bella figuraccia come al suo solito? Naturalmente no? Sì, eravamo sulle assi, calcavamo le assi di un palcoscenico, sì, in un palasport, non ricordo più se Reggio, Modena, ma non ha importanza, insomma in Emilia, e dovevamo salire prima di Pierangelo, cosa che facemmo eseguendo una canzone dal titolo Calpesta il paralitico. Sicuramente molto molto ironica. Vogliamo ricordare qualche perla dei versi di questa canzone, se se la ricorda? Calpesta il paralitico, molesta il paraplegico, detesta il catatonico, calpesta lo psicotico. Complimenti, ecco. Veramente sì. Complimenti. Sono certo che Bertoli l'avrà presa bene. Sì, beh sì, perché era una persona molto autoironica, sì. Però comunque ci sono due versioni, sì. Il chitarrista degli Schiantos, Fabio Dendibestia Testoni, Dio lo benedica e lo conservi in salute, sì, sostiene che Bertoli fu addirittura entusiasta della canzone. Io lo ricordo un po' freddino nel darmi la mano, ma la canzone ci fu commissionata da associazioni di paraplegici, sì, quali dissero basta con la carità, certo, pelosa, con lo stereotipo della carità pelosa, facciamo una canzone contro tutti i modelli buonisti. Maestro, io comunque vadano le cose sarò sempre schierato dalla sua parte, stia tranquillo. Grazie, lo apprezzo molto. Pare burro vaccherò, pare burro vaccherò, mazza che figata sto programma, regà. Girl I love, my, she looks so fine. She's the only one that I've been dreaming of. Maybe someday she will be all mine. I wanna tell her that I love her so. I threw with her every touch. I need to tell her she's the only one I really love. She won't be true now. I got a woman stay drunk all the time. I said I got a little woman and she won't be true. On Sunday morning when we go down to church, see the men folks standing in line. Don't say they come to pray to the Lord, but when my little girl looks so fine. In the evening when the sun is sinking low, everybody's with the one they love. I walk the town, keep searching all around, looking for my street corner girl. I'm gonna want one ball all day. I'm gonna want, she won't be true, no, no. I gotta want, stay drunk all the time. There's a midnight shift, she falls around all the time. I guess it's just one thing left for me to do. Gonna pack my bags and move on my way. Cause I got a worried mind, sharing what I thought was mine. Gonna leave her with a guitar's play. I'm gonna want, she won't be true, no, no. Vedi, se lo chiedono anche gli Zeppelin. Ehi, ehi, what can I do? Che sarebbe tradotto ehi, ehi, che è intraducibile. Che cosa posso fare? Beh, le Zeppelin possono semplicemente tenerci compagnia con la loro grande musica. Invece tu, amico e amica là fuori, ci puoi aiutare, boh, inventandoti qualcosa a caso, non questa trasmissione, per quanto sia garbata, è anche buttata un po' lì. È una trasmissione buttata lì, quindi potete partecipare un po' tutti. Molti di voi già si sono presi il loro compito. C'è un amico milanese che è da parecchie settimane che ci telefona in fuori onda. Il ragazzo, oh, ci crede un sacco, vuole aiutare Pane, Burro, Rock and Roll. Allora, visto che da qualche tempo ci stiamo occupando di calendari, il perché non è ancora stato spiegato e non so se lo spiegheremo mai, ma tant'è, ci stiamo occupando di calendari. Abbiamo un'amica che ci racconta le bellezze dell'essere umano maschio con i calendari maschili. Abbiamo da qualche giorno un guidatore di camion da Ravenna che ci racconta le bellezze femminili. E allora perché non occuparci anche di tutti gli altri calendari che ci sono in circolazione? Lui farà questo, si chiama Alessandro ed ha una patente numero 353. Benvenuto a Pane, Burro, Rock and Roll, Alessandro. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Sai che ce l'abbiamo fatta, eh? Finalmente, yeah, puoi aiutare Pane, Burro, Rock and Roll. Come ti senti? No, emozionato, contento, no, di poter aiutare, sì, la missione di Rock FM. Allora, Alessandro, immaginatevelo nel suo posto di lavoro cosparso di calendari, perché ovviamente ha preso il compito in maniera seria. Quanti ne hai visionati più o meno, Alessandro? Guarda, più o meno sono una decina. È da due settimane che non pensi ad altro. No, mi impegno su questa cosa, visto che me l'ho proposta. Hai fatto benissimo, noi ti siamo vicini in questo compito. Quale calendario avresti scelto per quest'oggi? Allora, oggi ho scelto un calendario un po' strano, si chiama L'Erbolario. L'Erbolario, quindi parla di erba. Sì. Beh, molto rock, ma di quell'erba lì... No, penso che siano piante curative. Piante curative, una cosa da erboristeria? Sì, sì, sì. Ma c'è anche lo sponsor? No, non ci sono sponsor qua sopra, cioè solo scritto L'Erbolario e basta. Ok, allora ci occupiamo a Pane, il Burro, Rock and Roll del calendario L'Erbolario. Hai scelto un mese in particolare? Sì, ho scelto il mese di marzo. Marzo, perché proprio questo? Ma più che altro per i nomi strani che ho trovato sopra. Facci entrare nel calendario. Cosa c'è? Una foto dell'erba? Allora sì, c'è una foto che sembra quasi un disegno, sì, con un tronco, sì, tagliato, rotto, diciamo, sì, con delle radici molto folte verso il basso, sì, e questo in bianco e nero. Bianco e nero. E l'erba di marzo qual è? L'erba di marzo è la Viburnum lantana lantana. Lantana, che ovviamente saprai tradurre. Sì, certo. Ovvero? Ma lontana, lontana, penso, spero, più che altro. E vi, e vi, lontani, lontani. E Viburnum, invece? Non saprei proprio dirtelo. Non sappiamo, quindi il nome. Grande di... Ale! Che cos'hai, dei fan? Sì, con lei dei pazzi che ascoltano Rock FM qua. Senti, proseguiamo, quindi abbiamo allora, il nome in latino. Ci sono anche gli effetti curativi di questa... No, questa... non c'è segnato niente, c'è soltanto poi un altro, una specie di uccellino. Penso sì, che si chiami Prunella modularis. Prunella modularis? No, Prunella modularis dovrebbe essere il nome della pianta che è disegnata a colori di fianco. Con dei frutti. Quindi ce n'è una sia in bianco e nero che una colori. Sì, sono insieme. E un uccello. La pianta è verde con le foglie verdi, alcune rosse e gialle. Sì. Ma abbastanza grosse. Grosse. Foglie, sì. Con dei frutti rossi e neri. Sì. Tipo, sembrano quasi delle olive. Sì. Ma non è un olivo. No, non è un ulivo. È una pianta. Però la cosa interessante di questo mese è il nome dell'uccellino appoggiato sul ramo. Oh, finalmente il clou dell'intervento. L'uccellino si chiama Passera scopaiola. Eccolo lì! Ho capito dove volevi andare a parare, caro Alessandro. Ti abbiamo tanato. Credi si possa vivere senza quel calendario? Assolutamente, senza il calendario sì, senza la passera scopaiola penso proprio di no. Ciao Alessandro. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy Siamo noi di Pane, Burro e Rock and Roll che rifacciamo la versione originale sono proprio loro. So che è difficile a volte, Sam, no? Quando noi suoniamo i Beatles in italiano sembriamo proprio loro, invece questi erano i Beatles loro. 8 e 20 minuti primi. È ufficiale, è ovvio che non abbiamo il polso di questa trasmissione radiofonica, che è gettata nel caso più totale e nel caos più estremo. Saluto nuovamente Alessandro, appena andato in onda, la sua rubrica ha riscosso un successo molto particolare. La prima annotazione che ci fanno parecchi di voi è che l'Erbolario è anche una catena di negozi, quindi lo sponsor probabilmente era quello, e ringraziamo Fiore da Milano, che tra l'altro nomen omen, no? Si dice così, tanto per continuare sul latinismo. E abbiamo anche una precisazione da Riccardo da Milano: la Prunella modularis è il nome della passola scopaiola. Grazie, grazie mille. Come ringrazio l'SMS anonimo: la passera scopaiola vola o scopa? Grazie anche per questo. E l'ultimo saluto a Ste da Milano: la mia ragazza lavorava all'erbolario, quei calendari sono ottimi per i filtri. Io non ho parole, grazie ancora a tutti quanti. Come ringrazio anche l'uso da Como, che invece mi manda questo SMS: ieri ero a casa con la febbre, ho visto Buona Domenica in televisione, ma non è un po' cretina la sfida del surf? Allora, caso, caro Luso, sono orgogliosissimo di poterti dire che non so di cosa tu stia parlando. Se vorrai un giorno descriverci la gara del surf di Buona Domenica, sentiti pure libero di farlo. Se vogliamo proporre ai radioascoltatori di Rock FM una sfida contro la televisione, noi siamo prontissimi a schierarci contro la televisione in qualsiasi momento. E quindi, se vogliamo fare controprogrammazione a Buona Domenica, facciamolo pure. Cos'è la sfida del surf? Non lo so. E un pochino, te lo dico anche, non mi interessa tantissimo. Mentre, ma grazie comunque della segnalazione, parecchio mi interessa un'altra segnalazione arrivata via SMS, e ringrazio Manolo. No, ma dici che è lui? Aspetta, no, non è lui. Sì, è lui. Fammi vedere, è lui, ragazzi. Peccato, abbiamo fatto il colpo grobbo. Ne parliamo dopo. Prima c'è l'appuntamento col test attitudinale, breve pausa pubblicitaria e poi l'ultima mezz'ora di Pane, Burro e Rock and Roll. Non affrontate con ansia il test attitudinale, rilassatevi. Spacciamo roba buona qui a Rock FM, anche per rilassarvi. Eccolo qui, in compagnia degli Steppenwolf. Arriva il nostro pusher, il nostro spacciatore. Roba buona, roba good. It's only rock and roll. No, I smoked a lot of grass. L'erba dell'erborario. Oh Lord, I popped a lot of pills. But I've never touched nothing that my spirit could kill. You know, I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. But the butcher don't care. Oh, if you live or if you die. God damn the pusher. Ah, oh, but the butcher is a monster. got the pusher on your body. Love will leave your mind to scream. God damn, I'm the pusher. Eccoci pronti all'appuntamento con il test attitudinale. Mi permetta di dirlo, caro Freak, la domanda di oggi è semplicissima. Perché suona la chitarra? Me lo spieghi? Perché so che la domanda di oggi verte su un grande chitarrista. Ed ho saputo recentemente che esistono dei concorsi per persone che imitano la chitarra elettrica con la bocca. Si chiama Guitar Earring. Ne parleremo più avanti. Adesso occupiamoci della domanda di quest'oggi. Parliamo di Bob Dylan e delle sue canzoni che spesso e volentieri sono state reinterpretate da altri artisti. Lo stesso Jimi Hendrix nel 68 incise la versione che diventerà celebre di una canzone di Dylan. Ricordate quale brano di Bob Dylan incise Jimi Hendrix? Ipotesi A, All Along the Watchtower. Oppure? Ipotesi B, Knocking on Heaven's Door. Oppure? Mr. Tambourine Man, la terza opzione. Quest'oggi non potete sbagliare. Quest'oggi dovreste farcela, anzi dovete proprio azzeccarla. Impegnatevi. Comunque la risposta ve la diamo dopo, la soluzione a fra poco.